Ricetta della felicità. Grammi 1000 di comprensione. Grammi 2500 di pazienza. Grammi 300 grammi 350 di dolcezza. Baci a volontà. E poi mescolare a lungo aggiungendo un pizzico di allegria. E poi cucinare a fuoco moderato per tutta la vita.